essere e benessere di Nicoletta Carbone. Benvenuti a voi e grazie per essere in nostra compagnia. Andiamo ai titoli del nostro sommario, ma prima ringrazio Peter Bescapè in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Partiamo. Pressione, perché sale e come si controlla? Quando la routine ti aiuta a stare meglio. Bevande sì, ma mai troppo calde. Ipertensione, quando la pressione supera i livelli di guardia. Questo è il tema della puntata di oggi, un problema, pensate, per circa 15 milioni di italiani. Diciamocelo pure, una specie di spada di Damocle che pende sulla nostra testa, a cui tutti siamo un po' rassegnati, perché lo mettiamo in conto che con l'età la nostra pressione inizia a diventare ballerina o alzarsi un po'. Questo può in parte spaventarci, preoccuparci, c'è chi poi ne fa una malattia, chi fa finta di niente, fa un po' come gli struzzi, ma io direi di fare subito un passo indietro, perché la domanda sorge spontanea: si può evitare di diventare ipertesi? E nel caso ciò non fosse possibile, la soluzione è sempre farmacologica e soprattutto si trova sempre la terapia giusta? Oggi in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Fabio Magrini, che è tornato a trovarci, è direttore della medicina cardiovascolare dell'Università di Milano, Ospedale Policlinico. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie. Professore, domenica si celebra la giornata mondiale dell'ipertensione. Questo è un appuntamento importante, è nato per fare informazione, soprattutto per sensibilizzare tutti noi a controllarci la pressione, che è un importante fattore di rischio, questo lo sappiamo, per le malattie cardiovascolari, e quindi anche per aiutare a scovare un po' chi è iperteso non lo sa, ma anche per informare chi invece iperteso lo è e si sta curando a non abbandonare la terapia, a curarsi per bene. Assolutamente d'accordo. Allora, lei sa che queste giornate mondiali eccetera dovrebbero servire a dare informazioni, a dare informazioni utili per prevenire malanni o comunque per far funzionare meglio il nostro apparato cardiovascolare, sì, il quale per funzionare deve sviluppare pressione, che è la forza che fa circolare il sangue e che porta il sangue a nutrire i vari organi. Quindi la pressione è un'amica dell'uomo e della donna, non è il nemico. Il problema è che quando questa pressione diventa troppo alta, come può succedere in uno pneumatico, danneggia le pareti delle arterie, le pareti del cuore e può creare problemi molto seri. Allora i medici questo l'hanno capito da un pezzo, sì, e lo sforzo è convincere la popolazione a conoscere la propria pressione. Su questo insisto, perché l'aspetto, non so come chiamarlo, antipatico della pressione è che aumenta e noi non ce ne accorgiamo, cioè certo, si sta benone anche con la pressione alta. Quando si comincia a non stare bene può essere già tardi, vuol dire che la pressione ha già creato una cosa che noi chiamiamo danno d'organo, che può essere a carico dell'occhio, del cervello, dell'aorta, del cuore, dei reni e così via. Quindi danneggia un po' tutto e allora diventa importante avere un regime di pressione non più alto del normale per far funzionare meglio i nostri organi e tutti noi ci auguriamo per avere anche una vita più lunga, insomma. Professore, quest'anno lo slogan della giornata è sale e ipertensione, due killer silenziosi. Allora, se lei mi aiuta, io li guarderei in faccia questi due killer. In parte della pressione alta, dell'ipertensione, lei già ha accennato a che cosa può provocare, perché è così importante tenerla sotto i livelli controllata, nei livelli ottimali, che li diciamo subito, vero professore? Dunque, bisogna stare al di sotto di 140. Allora insisto su questo punto, l'importante è che il normale cittadino si ricordi soprattutto la pressione massima. Tutti sanno che la pressione si identifica con due numeri, la massima, sì, e la minima. Quella che può creare danno è la massima. La minima interessa più ai medici, che devono decidere se la minima in un certo modo si può usare una medicina piuttosto che un'altra, ma la massima è la cosa che tutti dovrebbero conoscere. Allora, non superare i 140. Sì, quindi un numero semplice un da numero ricordare. Semplice, un numero unico, e direi la prima primo consiglio che noi potremmo dare è: quando siete diventati grandi, non so, a 20 anni, scoprite qual è la vostra pressione, perché nessuno la misura rutinariamente. Una volta per gli uomini c'era il servizio militare ed era una visita che in qualche modo dava queste informazioni, adesso non c'è, le scuole o le palestre qualche informazione utile la danno, però il consiglio è: nel mese del compleanno, compite 20 anni, misuratevi la pressione. Vale anche per le donne, perché le donne, soprattutto dai 20 ai 40 anni, possono, o se lo desiderano, eccetera, fare bambini. Allora, la gravidanza è una condizione in cui è importante sapere se la pressione prima era normale, durante la gravidanza deve scendere, eccetera. Quindi il primo punto è scoprire qual è la propria pressione. Possiamo misurarcelo il giorno del nostro compleanno e ci ricordiamo. Sì, magari il giorno del compleanno uno si diverte con altre cose. Però il mese del compleanno, dedicare un piccolo momento della giornata a quattro cose: quanto pesi, quanto sei alto, quanta pressione hai, insomma, veramente cose piccole che dovrebbero servire a prevenire guai per la pressione entro 140. Entro 140. Professore, accenniamo anche al sale, ne parleremo anche naturalmente nel corso della trasmissione. C'è anche un bell'articolo oggi su Repubblica. Il sale viene nominato, no? Viene tirato in ballo per l'ipertensione. Perché, certo, professore? Certo. Allora, lei prima, o la sua collega, diceva: ma perché diventiamo ipertesi? Tutti i medici del mondo, soprattutto gli addetti ai lavori, cercano di studiare questo problema. Una risposta secca non c'è. Noi sappiamo che il 20% delle persone che sviluppano pressione alta, quindi che deviano dalla curva che descrive la storia della pressione dalla nascita ai 100 anni, il 20% di questi è molto sensibile al sale. Prima informazione sicura. Perché? Perché il sale non viene eliminato dal rene in modo appropriato. Sì. Ogni volta che una molecola di sale, io un po' semplifico, rimane nel nostro organismo, si trascina dietro due molecole d'acqua. Questo espande la quantità di acqua e di sale che c'è nel nostro sistema, e questo può far diventare le arterie o più dure o più strette, o comunque far aumentare la pressione. Allora, l'idea è che il sale non venga governato in modo appropriato dal rene nel 20% degli ipertesi, che vengono chiamati sensibili al sale. Tant'è che si è creato proprio un partito dell'acqua e del sale, se così si può dire, che ha poi una sua linea, non so, di ecologi, che dice: no, non dovete usare i diuretici, dovete semplicemente mangiare meno sale, e gli estremisti dicono: Non mangiate per niente sale. Questo, allora, è un po' difficile. Questo è un po' difficile, perché il sale fa parte delle sostanze che servono a far funzionare il sistema. Quindi essere con troppo sale è uno stress per l'apparato cardiovascolare, ma anche essere deprivati completamente di sale può creare dei problemi. L'OMS raccomanda di non consumare più di 5 grammi al giorno. Perfetto. Visualizzandolo, è un cucchiaino da caffè raso? Esatto. Perfetto. Tanto perché se no i grammi poi uno... Sì, sì. Allora, 5 grammi sono un cucchiaino raso, e quello dovrebbe essere il consumo nelle 24 ore. C'è da dire che da un po' di anni una buona quantità di sale c'è anche in tutti gli alimenti, sì, preparati in precedenza, eccetera. Allora, in Italia si stima che il consumo medio di sale sia almeno il doppio di quanto consigliato dai medici. Insomma, invece che 5 grammi ne vengono consumati mediamente 10 o 15. Quindi ridurlo mi va benissimo, penso che sia una buona strategia. La abolizione va limitata a categorie ben identificate di persone, certo, che sono sale sensibili e che vengono in qualche modo identificate dai loro medici. Insomma. Daremo anche dei consigli per aggiungere sapore ai nostri piatti senza abbondare di sale, ma intanto che voi ci state ascoltando, abbiamo detto 140 il valore che dobbiamo considerare massimo della nostra pressione massimo. Intanto io vi ricordo un altro numero, che è il nostro numero verde, a cui voi potete chiamare per parlare della vostra pressione. pressione, della vostra ipertensione, 824 0024, 349 238 6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Piccoli affanni quotidiani, chi non ne ha? Ogni giorno ci troviamo di fronte a sfide di varia natura, sia nella vita personale sia in quella professionale. Troppo spesso ci sembra di non possedere gli strumenti necessari per affrontarli e per superare l'ostacolo, ma come sempre accade, la soluzione è proprio lì sotto i nostri occhi e in questo caso nella nostra routine. Se vi sembra impossibile, io vi invito ad ascoltare questo breve estratto da un libro molto interessante di Maria Caterina Capurro, è una coach professionista, che ha scritto questo libro che si intitola Il potere della routine. Subito dopo parleremo con la stessa autrice per capire come non farci schiacciare dalla quotidianità, a volte molto pesante, ma come invece usarla proprio a nostro vantaggio, direi come una sorta di pila, come una ricarica. Sentiamo. Presta attenzione ai tuoi pensieri, diventano parole. Presta attenzione alle tue parole. Diventano azioni. Presta attenzione alle tue azioni. Diventano abitudini. Presta attenzione alle tue abitudini. Diventano il tuo carattere. Presta attenzione al tuo carattere. Diventa il tuo destino. Frank Outlaw. E adesso direi che dalla teoria possiamo passare alla pratica con i consigli di Maria Caterina Capurro, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, dottoressa, lei propone una serie di esercizi, ma dà anche delle indicazioni pratiche proprio per aiutare il lettore a trasformare la routine in risorsa e metterla in qualche modo, direi, a nostro servizio. Esattamente, la routine può essere al nostro servizio se noi sappiamo portarla al nostro servizio. Quindi volevo proprio proporre ai suoi ascoltatori un esercizio, sicuramente l'esercizio centrale di tutto il libro, che è quello di sviluppare una routine che portatrice dello stato migliore per noi, cioè che ci possa mettere in grado di performare le nostre attività quotidiane, che possono essere un colloquio, un esame, una riunione, una presentazione, tutto quello che ci vede ogni giorno presi a dare il meglio di noi per riuscire a tirarlo fuori. Quindi la cosa migliore è concentrarsi su ciò che noi vogliamo realizzare, quindi pensare al nostro obiettivo che ci vedrà impegnati nel futuro, descrivere veramente cosa vogliamo ottenere e poi riflettere su che stato ci può agevolare a ottenere quell'obiettivo. A quel punto siamo pronti per creare la nostra routine personale, che chiaramente è molto personale, quindi non può essere qualcosa di una ricetta valida per tutti. Per questo io invito il lettore a riflettere su quello che desidera veramente tirare fuori da sé e poi testarsi. Se la routine tira veramente fuori da sé lo stato desiderato, si è pronti per andare a dare il meglio di sé in quello che ci attende. Grazie dottoressa Capurro, e allora la saluto con un altro breve estratto dal suo libro. Il successo non è la chiave della felicità, la felicità è la chiave del successo. Se ami ciò che fai, avrai successo. Albert Schweitzer. Pronto soccorso. E torniamo a parlare di ipertensione, la conosciamo tutti, invito chi la conosce per esperienza diretta a chiamarci al nostro numero verde 824 0024, ma naturalmente allargo l'invito a chi ne ha solo sentito parlare per portarsi, come si dice, un po' avanti e sapere tutto quello che occorre per mantenerla nei valori ottimali. Professore, le leggo subito un messaggio che ci arriva da Riccardo da Milano, che ci scrive: non dimenticate di ricordare che è importantissimo non usare sale nel cibo dei bambini fino a 3 anni, non ne hanno bisogno e tutti i neonati sono sale sensibili perché i reni non sono ancora nel pieno della loro funzionalità. Professore. Guardi, è un ottimo consiglio. Penso che i neonati poi hanno un'alimentazione a cui i medici stanno particolarmente attenti. Penso che se facessimo questa domanda a Darwin, lui direbbe: guardate che il sale è stato necessario per il nostro sistema quando siamo usciti dalle acque sia materne che del pianeta, non so, sì, come dire, e abbiamo imparato a stare in piedi per poter controllare gli spostamenti dei fluidi in ambiente gravitazionale. Il nostro sistema ha dovuto imparare a stringere le arterie e a sviluppare pressione per far arrivare il sangue al cervello, che si è trovato più in alto. Quindi poco sale va bene, abituare il sistema alla gestione del sale è una cosa ovviamente che fa parte della natura. E in questo senso noi qui a Milano abbiamo pensato che forse la popolazione femminile è la popolazione che va più sensibilizzata, perché in una certa misura si intuisce che chi ha il controllo del sale nell'alimentazione familiare è forse più la componente femminile di quella maschile. Sì, quindi, che abitua e educa anche al gusto salato, oltre che a gestire magari il sale nella preparazione dei piatti. Il problema del gusto è un qualche cosa che è molto culturale, non sì. so come dire. Però certamente, non so, varianti al sale, spezie, oppure il potassio anziché il sodio, perché il sale in realtà si chiama cloruro di sodio. Possono essere delle alternative che cercano di salvare il piacere dell'alimentazione, che è un qualche cosa molto importante anche in termini proprio di evoluzione della specie. Non sottovalutare che deve essere anche piacevole mangiare. Ovviamente deve passare la linea della moderazione un po' su tutto, insomma. Professore, lei accennava alle donne, ci saranno tante iniziative in occasione della giornata mondiale dell'ipertensione, voi nel vostro centro vi rivolgete in modo particolare alle donne, andate davanti ad una clinica proprio delle donne alla Mangiagalli, esatto, vero? E fermate, non abbordate, ma fermate le signore, giovani e meno giovani, per misurare loro la pressione. Naturalmente accettate anche compagni, mariti e quant'altro, ma io volevo chiedere a lei di aiutare le nostre ascoltatrici da casa. Noi donne spesso mandiamo i nostri mariti, i nostri compagni a farsi misurare la pressione, e noi invece non ci rendiamo conto che anche noi dovremmo farlo per la nostra salute, specie perché la nostra pressione è un po' condizionabile. L'aggettivo non è giusto, ma il termine, volevo appunto sottolineare che ci sono dei momenti nella vita di una donna in cui la pressione va sicuramente controllata. Una di queste, donne in età fertile, ad esempio, professore, che usano la pillola anticoncezionale. Perché devono controllare la pressione? Devono fare attenzione ai valori della pressione? Allora, perfetto. Allora, le donne hanno quattro momenti che possono essere un pochino diversi dagli uomini, per cui è importante che abbiano informazioni sulla pressione e sul sale. Prima condizione, giovane donna che decide di prendere la pillola contraccettiva. Spesso tutto quanto avviene nel modo più corretto, vengono dosati gli ormoni qua e là su giù, ma non si dà a questa giovane donna una raccomandazione forte, ed è: misurati periodicamente la pressione, perché uno dei possibili effetti, chiamiamolo tra virgolette, antipatici della pillola, sì, è quello proprio di far salire un po' la pressione trattenendo acqua e sale. Sì. Quindi allora si può correggere la cosa anche riducendo il sale. Insomma, è una cosa un pochino complicata. Però il messaggio è: se prendete la pillola, ricordatevi di misurarvi la pressione. Ogni tanto, ogni quanto? Diciamo una volta all'anno. Una volta all'anno. Una volta all'anno. Saliamo tra invece i 20 e i 40. Gravidanza. Gravidanza. Questa è una condizione in cui è importantissimo che la pressione scenda, perché sì, la circolazione della mamma deve funzionare per due o tre a seconda dei casi, quindi il cuore pompa di più, le arterie si dilatano, si riduce la resistenza perché la placenta è molto morbida, insomma fa passare attraverso, la pressione deve scendere. Se non scende, la cosa va segnalata assolutamente. Certo. Allora i ginecologi adesso sono diventati espertissimi. Si attrezzano. Si attrezzano, e se dovesse salire diventa quasi una piccola emergenza che può diventare anche grande. Allora, per questo noi abbiamo, in accordo con i colleghi della Mangiagalli, che per Milano è un po' la clinica delle donne, eccetera, deciso di andare a sensibilizzarle ulteriormente. Va da sé che se passa un papà o un marito, certo, stressato, più o meno noi gli misureremo la pressione. Terza condizione, che è quella della menopausa. In quella fase la pressione può salire, scendere, può ballerina, diciamo, fastidiosa. Allora, si può avere varie strategie, aspettare che passi, non fare niente, sì, e basta saperlo, oppure ci sono strategie farmacologiche che però vanno negoziate con il ginecologo e anche il cardiovascolarista, insomma. Può dire, e anche in questo momento controllate il sale, controllate la pressione, direi di dare la linea a Paola da Milano, professore, su questi aspetti naturalmente stimolati dalle telefonate delle nostre ascoltatrici. Torneremo, voglio salutare Paola da Milano prima di andare ai mercati. Paola, buongiorno. Buongiorno. Paola, si misura la pressione lei? Sì, ultimamente anche piuttosto frequentemente, perché appunto l'argomento di cui volevo parlare con lei, il professore, era gli sbalzi prestori, perché sì, la persona, diciamo, ipotesa in gioventù e normotesa, a causa dello stress, mi sono trasformata in una persona che ha una pressione massima nei termini, insomma, non di molto superiore ai 140 indicati dal professore, sì, però una pressione minima molto alta, e questo a picchi, perché poi quando, diciamo così, mi tranquillizzo, la cosa scende, ritorna nella, diciamo così, nella norma, dagli 85, 125, 90, 130. Quindi Paola, lei è spaventata, è un po' preoccupata per questi sbalzi della pressione, ma della minima. Professor Magrini, la risposta di Paola, riusciamo a darla in breve tempo? Velocissima. Grazie. Allora, lo stress ambientale o nelle relazioni personali libera adrenalina, l'adrenalina fa stringere le arterie e fa aumentare la pressione. Sì. Allora i medici fanno fatica a combattere lo stress tornando nel paradiso terrestre, eccetera. Esistono però dei farmaci molto efficaci nel bloccare i recettori dell'adrenalina. Si chiamano farmaci beta bloccanti e hanno avuto un successo clamoroso, sì, e non danno per lo più effetti importanti, come dire, che controindichino, sì, insomma, il loro uso. Sicuramente bisogna che ne parli con il, con suo il medico, proprio, cioè, medico. Ipertensione, 824 0024, questo è il nostro numero verde, non per farla scendere ma per avere informazioni per controllarla bene. In linea con noi abbiamo il professor Fabio Magrini. Professore, una Silvia, 28 anni, in gravidanza, ci chiede quali sono i valori ottimali di massima e di minima, però ci chiede durante la gravidanza. Poi andiamo subito a... Ferdinando. La pressione massima deve scendere tra i 100 e i 110 e la pressione minima tra i 70, intorno ai 70. La frequenza dei battiti un pochino aumenta e questo è quello che deve succedere durante la gravidanza. Quindi se prima della gravidanza la pressione era 120, 130, 140, durante la gravidanza è bene che scenda verso i 110. Prima di Ferdinando, ci aveva chiamato prima Gaspare, per cui non facciamo, seguo le indicazioni. Gaspare da Palermo e poi Ferdinando. Gaspare, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere al dottore, se possibile, sì, perché soffro di ipertensione da circa 5 anni e ho controllato con un metabloccante finora. Adesso in un paio di circostanze mi è successo che non appena io mi altero, per due volte consecutive mi è successo, mi comincia a fare male il lato del cuore del sinistro. Allora ho approfondito con un'ecografia, sì, e mi risulta una ipertrofia lieve di 13 mm. Il cardiologo non mi fa spaventare, volevo qualche notizia dal, sì, voleva farsi spaventare dal professor Magrini, dato che il suo medico non mi svenò alla spaventa. Uno Gaspare, sentiamo subito dal professor Magrini. Professore, anche lei concorda? Non c'è da spaventarsi? Allora no, io penso che quando c'è un dolore che uno sente sulla parte davanti del torace va interpretato, quindi il mio primo consiglio è cerchi di farsi registrare l'elettrocardiogramma mentre sente il dolore. Allora una soluzione pratica è attaccare quegli apparecchiettini che si chiamano Holter, che registrano l'elettrocardiogramma e durano 24 ore. In quelle 24 ore lei cerchi di farsi venire o faccia degli sforzi, eccetera, si arrabbia, in modo da vedere se quando c'è il dolore l'elettrocardiogramma si modifica o no. E questo permette di ma di cancellare qualsiasi preoccupazione su un possibile danno del cuore. L'ipertrofia di per sé non fa male, è un segno di muscolo grosso, bisogna tenerlo controllato e soprattutto fare in modo che la pressione sia più controllata. Sempre più controllata. Professore, per la persona ipertesa sono necessari controlli particolari o basta misurare la pressione e seguire, laddove è necessario, la terapia farmacologica? Allora, quando si scopre di avere la pressione alta, e la cosa può essere del tutto casuale, perché come dicevamo all'inizio la pressione aumenta e noi ci sentiamo benone. Sì. Se si scopre in modo casuale che la pressione ha deviato verso l'alto, sì, il medico, sulla base di tutta una serie di domande, di elementi che raccoglie, fa un programma di esami, cioè uno zoccolo duro di esami semplici, che sono la glicemia, la creatininemia, il colesterolo, insomma le linee metaboliche, sì, più l'emocromo, che vuol dire quanti globuli rossi e bianchi noi abbiamo. Insomma, alcune cose sono di base, possono essere integrate dallo studio della tiroide o di ormoni particolari. Dopodiché si fa un elettrocardiogramma, la misurazione che bene venga fatta anche dal paziente, quindi io sono molto favorevole all'automisurazione, insomma imparare a misurarsi la casa, la sera seduti dalle 6 alle 8 senza che ne scappi la pipì, che si è arrabbiato, insomma in condizioni di tranquillità. Questo è utilissimo e dà anche al paziente un certo controllo su il trattamento, quanto funziona, eccetera. Quindi direi che ci sono esami semplicissimi del sangue e pochissimi esami per vedere se gli organi sono stati danneggiati. L'elettrocardiogramma e l'ecocardiogramma sono i più semplici, insomma. Io saluto intanto anche il dottor Marco Temporin, nutrizionista e specialista in igiene e medicina preventiva, che è in linea con noi. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottore, per radioascoltatori. La tengo lì, intanto la saluto perché avevo un appuntamento con Ferdinando da Novara. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno. L'ho fatto aspettare un po', ma avevo Gaspare. No, non è un problema. Senti, io sono un tipo tranquillo, 57 anni, e sono figlio di contadini. Da piccolino ci diceva la nonna di mangiare aglio, cipolle e peperoncino. Io questa tradizione l'ho portata avanti, due volte alla settimana mi faccio la mia mangiatine di aglio e peperoncino piccante, perché mi piace il piccante, e la pressione ce l'ho buona. L'unico problema, non mi arrabbio mai, ma ogni anno, due anni, mi arrabbio quei 20 secondi e la minima va a finire quasi come la massima. Però si arrabbia talmente poco. Allora, io prenderei spunto proprio dalla telefonata di Ferdinando per coinvolgere subito il dottor Marco Temporin, che ci dà qualche indicazione per sederci a tavola. Non dico per prevenire la pressione, si può prevenire la pressione a tavola, dottor Temporin? E per parlare anche di aglio. Certo, sicuramente una corretta alimentazione può aiutare a prevenire, ma soprattutto a controllare meglio l'ipertensione. Quindi una dieta che tenga conto di una forte ricchezza di vegetali, frutta e verdura soprattutto cruda, povera in grassi saturi e ovviamente con un ridotto apporto di sale, può essere sicuramente utile. Da porre attenzione ovviamente anche a una limitazione dell'alcol e del caffè. Certo, quindi frutta e verdura e poco sale. Sull'aglio volevo sentire un po' le impressioni sia del professor Magrini che del dottor Temporin. Professor Magrini. Dunque, prima di tutto bisogna che l'aglio piaccia. Sì. Allora, se al nostro amico di Novara piace, contento lui e la sua famiglia. A volte si ha la sensazione che gli effetti dell'aglio vengano presentati in modo un po' miracolistico. Io penso che tutte le verdure vadano benissimo e sono assolutamente d'accordo nell'accentuare sulla nostra tavola la quantità di frutta, verdura, eccetera, non dimenticando un po' di proteine. Certo. Quindi penso che la cosa migliore, se vogliamo fare educazione, è che tutti mangino un un pochino di tutto, ma non tanto, ecco. E che lo mangino volentieri, in senso. Questo ci piace. Dottor Temporin, parlavamo di sale. Ci sono un po' dei trucchetti per ridurre il sale? Ad esempio, lo si dice sempre, utilizzare le erbe aromatiche. Ma oltre alle erbe aromatiche, che cosa possiamo aggiungere per dare sapore senza rischiare di superare quei famosi 5 grammi al giorno di sale, che sono quelli concessi? Beh, sicuramente le spezie sono utilissime per insaporire e per poter limitare l'utilizzo del sale, ma noi possiamo utilizzare anche dei cibi che possono antagonizzare l'effetto del cloruro di sodio, in quanto ricchi per esempio di magnesio e potassio. E questi cibi sono soprattutto, come dicevo prima, la frutta e la verdura, molta importanza anche ai cereali, in quanto soprattutto i cereali integrali sono più ricchi di magnesio e questi ci possono aiutare per antagonizzare l'effetto del cloruro di sodio. C'è da dire che per insaporire, esempio, si possono utilizzare anche alcuni semi oleosi come il sesamo, il quale aggiunto sulle verdure dà un gusto molto gradevole, poi è ricco anche di acidi grassi poliinsaturi, per cui fa bene sia al nostro palato che alle nostre arterie. Magnifico, dottor Temporini, io la ringrazio per essere stato con noi, la saluto, le auguro buona giornata. Saluti a tutti, arrivederci. Professor Magrini, ho bisogno di una sua risposta flash ad alcuni ascoltatori. Ad esempio, ci scrive: a volte sto smettendo di fumare, prima Gabriele da Padova, con la liquirizia pura, influisce sulla pressione? Che limiti ho? Sì, non ne mangi troppa. Cosa vuol dire? Troppa vuol dire più di un pacchettino di caramelline di liquirizia al giorno. Quelle senza zucchero? Sì, quelle fanno salire la pressione perché interferiscono proprio con il movimento del potassio e del sodio di cui parlavamo prima. E la sauna può essere un aiuto per stabilizzare la pressione, ci chiede Dario da Vicenza? La sauna è uno stress termico importante, la pressione può scendere, salire, così i battiti del cuore vanno da un estremo all'altro. È un'ottima ginnastica cardiovascolare nelle persone che si sono abituate progressivamente e che non hanno controindicazioni, insomma, se lui sta benone lo faccia, sì, eccetera. Se avesse dei problemi è meglio che ne parli prima col suo medico. Come si fa, un altro messaggio, a sapere se la pastiglia che si prende evidentemente per trattare la pressione copre tutta la giornata o lascia scoperte le ore della notte, che sono le più pericolose? Dunque, non sono d'accordo che le ore della notte siano le più pericolose. Nella notte la pressione scende per conto suo, c'è una fetta di popolazione in cui la pressione non scende, può scendere addirittura di sotto di 100, dei 100, e allora questi pazienti vanno un pochino studiati. Sì. Direi che ci sono pillole che sono costruite per durare 24 e anche più di 24 ore. Il sistema più semplice è fare una cosa che si chiama monitoraggio della pressione, sì, nel senso che c'è una macchinetta che la misura per le 24 ore, oppure imparare a misurarla alla mattina e alla sera e avere due punti all'inizio e alla fine della giornata è già una grossa informazione. La Latina ci chiama Augusto, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Bene, Augusto. Buongiorno, sì. Senta, volevo chiedere al professore una semplice domanda. Ma una persona che già prende la pasticca è costretto per tutta la vita a prendere questa pasticca, oppure ci sono dei metodi o dei sistemi alternativi magari naturali che possano, certo, evitare la terapia farmacologica per tutta la vita, esatto. Per tutta la vita. Augusto fa una domanda che ricorre spesso e soprattutto che si pongono tutte le persone a cui il medico suggerisce una terapia farmacologica. Insomma, l'idea di prendere la pastiglietta o le pastigliette, spesso sono più di una, non ci piace. Professor Magrini? Allora, la risposta è sì, generalmente se si interrompe la cura con le pillole la pressione torna su, quindi le pillole vanno prese per tutta la vita. Io penso che per farlo senza sentirsi handicappanti eccetera bisogna un pochino familiarizzare con le pillole, sapere come funzionano eccetera, e tutte queste informazioni il suo medico gliele può dare senz'altro. Le dirò un'ultimissima cosa, sì, che a volte si può ridurre la dose delle pillole, il numero delle pillole, se si perde peso nell'eventualità che si sia sovrappeso, si fa ginnastica nell'eventualità che si sia sedentario, si mangia in modo più corretto tutte le cose che abbiamo detto adesso e soprattutto si fa un'attività sportiva divertente. Sì, che è questo, insomma, bisogna mangiare bene e si dorme. Aurora, dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo fare una domanda a cui in parte il professore ha già risposto. E avanti, vabbè, il professor Magrini. Sì. Riguardo al perdere peso, al camminare molto, io ho dimezzato il farmaco che prendevo. Mm? E per quanto riguarda l'automisurazione, ecco, io ho un pochino questo problema. Ho sempre un po' di differenza fra quello che misuro io in casa e quando vado dal medico, e mi accorgo che quando il medico mi misura la pressione io mi agito e continuo a dirmi adesso vedrai che è più alta, adesso vedrai che è più alta. L'ipertensione da camice bianco l'avevano anche chiamata. Professor Magrini, assolutamente, toglietevi il camice. Sì, no, ma guardi, l'anno scorso quando c'era la festa della giornata dell'ipertensione, l'anno scorso siamo andati qui davanti agli uffici del giudice di pace a misurare la pressione alle persone che entravano e uscivano, ma abbiamo scoperto che esiste anche l'effetto toghe nere, non solo l'effetto camice bianco. Quindi qualsiasi situazione di preoccupazione, di ansia, fa aumentare la pressione. Quindi è molto più indicativa della situazione reale del circolo della signora la pressione che lei si misura a casa, seduta, senza stando tranquilla un attimo. Senza arrabbiarsi. E soprattutto eliminando la prima misurazione, io suppongo che la signora abbia queste macchinette elettroniche che funzionano bene, sì, usata sul braccio, tenuta a livello del cuore, la prima misurazione si butta via, non si guarda neppure. Se ne fa due nello spazio di pochissimi minuti e si fa una media. E quello è il valore probabilmente più attendibile. Vero. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Varnier. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Specialista in medicina dello sport e cardiologia, lavora presso l'unità operativa complessa di medicina dello sport dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Dottore, noi veniamo da lei perché dobbiamo suggerire ai nostri ascoltatori l'attività fisica adeguata per aiutare la pressione a o restare nei livelli ottimali, oppure per chi è iperteso a scegliere l'attività fisica più adeguata. Iniziamo da chi ha la pressione appena fuori dai livelli della norma. Ci sono delle attività fisiche più indicate di altri e quanto deve durare l'attività fisica, ogni quanto bisogna farla? Abbiamo due minuti di tempo. Allora, rapidissimamente. Allora, una volta escluso che ci siano problemi di altro genere, quindi tipo cardiopatia ischemica, questo, sì, un test da sforzo e un ecocardiogramma possono essere utili a riguardo, sì, direi che l'esercizio fisico è un ottimo farmaco antipertensivo. Agisce sia in acuto, ad esempio se noi misuriamo la pressione dopo un esercizio acuto di tipo aerobico, parlo sempre di aerobico, quindi quello che determina un buon consumo di ossigeno, camminata, un po' di jogging, la bicicletta, sì, i pattini, eccetera. Dopo 30-40 minuti di questa attività noi possiamo vedere un calo della pressione, proprio come effetto acuto, di 10-20 mm di mercurio della sistolica e di 5-10 della diastolica. Questo è un effetto però che dura alcune ore, dipende un po' da soggetto a soggetto. Devo dire che quali sono i soggetti che rispondono meglio? In questo caso le donne pare che rispondano meglio, ecco una notizia favorevole per il magnifico femminile. E i soggetti di media età rispetto a, diciamo, ai bambini e a quelli di età un po' più avanzata, dove probabilmente la pressione ha determinato delle alterazioni un po' più significative a livello dei vasi, dei vasi sanguigni. Ecco, però sì, i benefici sono anche a lungo termine. Dopo un'attività cronica. Sì. Allora, studi recenti dimostrano che un'attività fisica cronica di tipo aerobico almeno 3 volte alla settimana, meglio tutti i giorni, ma almeno 3 volte, della durata di 30-40 minuti, può determinare una riduzione della pressione arteriosa sistolica di circa da 5-8 mm di mercurio e della diastolica da lo stesso 4-6 mm di mercurio. Quindi un buon effetto. Un buon effetto. Direi che vale la pena darsi una mossa, aggiungere un po' meno sale, possiamo anche salare leggermente ogni giorno un po' meno l'acqua della nostra pasta. Io ringrazio il professor Fabio Magrini che ci ha accompagnato per tutta questa chiacchierata sull'ipertensione. Grazie professore. Grazie a voi. Il dottor Varnier, che è sempre convincente con i suoi dati, le sue ricerche per farci prendere la decisione di muovere qualche passo in più. Grazie dottor Varnier. Grazie, un salutone a tutti. Io vi aspetto domani, saremo a Torino, ma l'appuntamento rimane sempre anche dal Salone di Torino dopo le GR delle 11. Poi da lì vi racconterò che cosa succede. Intanto, buonissima giornata.